Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. I registi Claudia Cipriani e Niccolò Volpati sul loro film Pino, vita accidentale di un anarchico, in tour dal 18 febbraio 2020. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Ci raccontate di questo lavoro? È un lavoro che avevamo in testa da parecchio tempo e che poi si è concretizzato in realtà solo nell'ultimo anno e in particolare in una corsa nelle lavorazioni di questi ultimi mesi. L'intento era quello di raccontare la storia di Piazza Fontana, in particolare la vicenda di Pinelli, l'assassinio di Giuseppe Pinelli, immaginandosi un pubblico che ancora questa storia non lo conosce, quindi molto giovane e che quindi ha o poche informazioni o addirittura nessuna. Di materiale ne è uscito tanto, anche molto interessante, sia video che cartaceo. Anche negli ultimi mesi sono usciti tanti libri davvero interessanti. Il problema è che spesso, soprattutto sul materiale video, che è anche disponibile gratuitamente, la narrazione di quelle vicende avviene dal punto di vista cronologico e quindi gioco forza si devono spiegare dei concetti che probabilmente a un ragazzo o una ragazza che oggi possono avere 14 o 15 anni sono molto difficili da capire. Che cos'è l'autunno caldo, la strategia della tensione, la strage di Stato, eccetera, eccetera. E quindi noi ci siamo immaginati una modalità un po' diversa di narrazione che utilizza il racconto delle due figlie, Claudia e Silvia Pinelli, che all'epoca dei fatti avevano 8 e 9 anni, che il 12 dicembre del 1969 sono tornate a casa convinte di incontrare il papà che aveva smontato dal turno di notte in ferrovia e che invece del papà trovano la polizia che fa una perquisizione perché il papà si trova in questura. Questo concetto è relativamente un po' più facile da comprendere, immaginiamo, anche alle giovani generazioni, perché purtroppo anche un concetto che non è capitato solo 50 anni fa. E da lì si parte e crescendo poi anche l'età delle due bambine, cresce la loro consapevolezza e anche la comprensione di un fenomeno così complesso che introduce i concetti di strategia della tensione fatta per reprimere i movimenti della fine degli anni 60, di strage fascista e di responsabilità dello Stato in questa strage. Come avete pensato l'articolazione del film? Ci siamo domandati come raccontare questa storia e quindi abbiamo pensato di non raccontarla attraverso interviste e materiale di archivio, ma abbiamo pensato a un modo che fosse un pochino più accattivante per un pubblico giovane, che poi, come diceva Niccolò, in realtà il pubblico ideale diciamo appunto quello giovane, però anche chi la storia la conosce può trovare degli spunti e anche dei punti di vista inediti, perché la storia di Giuseppe Pinelli è raccontata sempre, quasi sempre, la sua morte e quasi mai la sua vita, e noi invece ci siamo voluti concentrare su quello. Come abbiamo fatto? Abbiamo deciso di raccontare attraverso dei disegni animati, quindi abbiamo fatto un cartooning, si chiama così, di riprese che sono state girate ad hoc per essere trasformate in disegni animati. Come contrappunto a questi disegni animati, su cui scorre la voce narrante delle figlie, appunto, c'è del materiale comunque fotografico e video. Per quello fotografico noi dobbiamo ringraziare moltissimo Giuliano Lucas, che fin dall'inizio ha sposato questo progetto e quindi ci ha messo a disposizione il suo archivio fotografico, che è molto ricco, molto bello, e che ci ha permesso di restituire un po' quello che era gli umori e anche insomma i colori in bianco e nero, comunque le composizioni dell'epoca. Poi dobbiamo anche ringraziare l'archivio Giuseppe Pinelli del Centro Studi Libertari di Milano, che da anni appunto sta raccogliendo tutto il materiale d'archivio sulla vicenda di Pinelli, in particolare anche quello raccolto in tutti questi anni da Licia Pinelli, lo ha digitalizzato, l'ha messo sul web e anche loro ci hanno fornito ovviamente moltissime fotografie moltissime, anche alcune immagini d'archivio che hanno inedite, che altri non avevano, e anche tantissimo ovviamente archivio di volantini, documenti e di articoli di giornale, che in qualche modo anche quelle sono entrate nella narrazione del film. Dicevate anche di un corposo e lungo lavoro di documentazione, ecco, quali sono state le scoperte più sorprendenti? Non è che le abbiamo fatte solo noi, chiunque abbia avuto voglia in questi ultimi mesi di dedicarsi, devo dire che io credo di aver letto veramente pochi libri, soprattutto negli ultimi mesi, la vicenda ovviamente la si conosce da più tempo. Sono uscite tantissime pubblicazioni, a mio avviso molto molto interessanti, anche perché mai nessuno la replica di quello che ha già scritto qualcun altro. La scoperta più sorprendente, direi che a mio avviso che merita una riflessione, è questo ruolo ormai accertato dei servizi segreti nella loro presenza in questura a Milano. Accertato perché forse a sua insaputa, diciamo, Renzi, con quella che si chiama la direttiva Renzi, ha desecretato un anno fa alcuni materiali d'archivio, e tra questi segreti desecretati ci sono appunto dei rapporti, delle relazioni che alcuni funzionari dei servizi segreti scrivevano al loro capo di allora, che era Federico Umberto D'Amato, capo dell'ufficio affari riservati del Ministero degli Interni. Questoro erano in cinque, comandati da un signore che si chiamava Russo Manno, erano presenti a Milano già poche ore dopo la strage. Russo Manno scriverà ad Amato: ho piazzato il mio tavolo dentro nell'ufficio di Allegra, che era il capo di Calabrese, il capo della Digos di Milano, e quindi a distanza di 50 anni si è venuto a conoscenza di questo ruolo che hanno svolto i servizi segreti italiani di allora, di cui nessuno, guarda caso, ci ha mai raccontato. Inoltre si trova anche un libro, che è quello di Paolo Morando, che si chiama Prima di Piazza Fontana, tutta questa parte molto interessante che dimostra, documenti alla mano, come la teoria che incolpava gli anarchici, ingiustamente, delle stragi e anche degli attentati del 69 precedenti a Piazza Fontana, cioè il 25 aprile alla Fiera Campionaria di Milano e l'8 e il 9 agosto sui treni, attentati compiuti invece da Fredde Ventura e dai fascisti di Ordine Nuovo del Veneto, quelli gli unici per cui l'hanno pagata, diciamo, con una sentenza di condanna. Tutta questa teoria è stata costruita a partire dal 1965 dai servizi segreti, dai militari italiani, da esponenti importanti, e quindi dallo Stato fondamentalmente. Questo dimostra che quella teoria, diciamo, è stata costruita della colpevolezza degli anarchici e non è stata comunque casuale. Se posso aggiungere una cosa, per me è stato importante invece, anche oltre a questo, ovviamente per quello che dicevamo prima di raccontare anche la vita, sentire tutti i racconti di Claudia, Silvia, Alice, e anche di chi ha conosciuto Giuseppe Pinelli, e quindi restituire quella che era la vita di Pinelli, le sue idee, la sua quotidianità anche. E devo dire che alla fine di tutta questa immersione, anche oltre che nella morte di Pinelli, ma anche nella sua vita, mi fa essere ancora più arrabbiata, ecco, insomma, più indignata della sua morte, della sua uccisione. Ecco, volevo proprio chiedervi l'impressione generale che avete avuto nell'analizzare complessivamente tutta la vicenda. Come ti diceva Claudia, comunque per noi è stata, per quanto, diciamo, da anni potesse interessarci alla questione, è stata davvero una sorpresa, perché forse appunto anche il racconto di chi fosse Giuseppe Pinelli in questi anni un po' si è perso, non che sia una colpa, ma perché molti si sono concentrati appunto su le vicende inerenti alla sua uccisione e tutte le contraddizioni rispetto alle versioni ufficiali. Invece è anche molto interessante vedere quella che era la sua vita, che cosa pensava, che cosa faceva, che cosa pensava dell'anarchia, che cosa faceva anche per i giovani anarchici arrestati ingiustamente per gli attentati di cui dicevamo prima, e anche la sua vita familiare e dei suoi affetti. Questo è stato molto interessante, speriamo in qualche modo di averlo restituito nel film, che infatti come sottotitolo è quello di Vita accidentale di un anarchico, perché non si voleva, insomma, solo soffermarsi sulla questione della morte. E poi devo dire che spero che fondamentalmente le tante cose che stanno uscendo in questo 50° anniversario possano servire per fare un passo avanti ulteriore. Ogni tanto si ha la sensazione che si faccia un passo avanti, ogni tanto si ha la sensazione che invece ci sia una brusca frenata. Un passo avanti almeno nella consapevolezza di quello che è stato appunto, come si diceva già pochi mesi dopo, la strage è di Stato e Pinelli è stato assassinato. Ci tengo a dire, a sottolineare che questo lavoro è stato fatto perché poi possa avere una vita e girare moltissimo nelle scuole, nei circoli, in tutte le associazioni che lo richiederanno, anche perché per esempio le stesse Claudia e Silvia Pinelli spesso sono chiamate a fare interventi nelle scuole e quindi ci piace l'idea che i loro interventi possano essere accompagnati dalla proiezione di questo film documentario animato. Pino, vita accidentale di un anarchico, un saluto e un ringraziamento agli autori Claudia Cipriani e Nicolò Volpati. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie. Grazie. I registi Claudia Cipriani e Niccolò Volpati sul loro film Pino, vita accidentale di un anarchico, in tour dal 18 febbraio 2020. Con Carlo Hinterman, curatore dell'appuntamento a Roma, allo spazio Apollo 11, con la proiezione del film Granny Project di Balint Revez, proiezione incontro con il regista giovedì 27 febbraio 2020. Carlo, ben trovato. Ciao, ciao Federico. Allora, partiamo dal fatto che è il primo di quattro appuntamenti gestiti da voi. Ci racconti un po'? Sì, allora l'appuntamento è fatto insieme all'Apollo 11, ai Racconti del Vero e all'Associazione Orra, che è un'associazione che cerca di portare un'immagine dell'ebraismo dinamica. Quindi il ciclo immaginato sono di quattro documentari che hanno in qualche modo problematizzato l'identità ebraica e ragionato appunto su cosa significa, anche usando il paradosso come strumento per definire questa realtà. Il primo appuntamento appunto è Granny Project, che è un film che ho amato moltissimo e che proiettiamo appunto il 27. Poi segue La strada per le montagne di Vinco Rubini, che verrà proiettato il 19 marzo, poi Valdheim Vals di Ruth Begerman il 2 aprile e infine The Prince and the D-Book il 30 aprile. La cosa che ci abbiamo tenuto a fare è quella di invitare ogni volta gli autori e insieme agli autori qualcuno che potesse interagire. Nello specifico il 27 c'è anche Alberto Caviglia, il regista di Pecore in Erba e adesso da poco è uscito Olocaustico, che era appunto una sponda interessante per ragionare di paradossi, perché anche lui è un professionista del paradosso. Allora, concentriamoci su Granny Project. Ci racconti un po' della storia di questo lavoro? Ma è un lavoro assolutamente eccezionale, perché il regista insieme a due amici della scuola di cinema a Londra scopre di avere tre nonne diametralmente opposte: una sopravvissuta ai campi di sterminio a Auschwitz, la nonna del regista, è ungherese; un'altra che invece ha lavorato per i servizi segreti inglesi decodificando le mosse naziste e quindi impedendo degli attacchi durante la seconda guerra mondiale, e una terza invece che ha aderito da giovane alla gioventù nazista. I tre decidono di creare questo confronto impossibile, ma con un'attitudine assolutamente punk, nel senso che loro proprio si gettano in questo flusso, prendono le nonne sulle sedie a rotelle, le portano nei luoghi della loro memoria, e mentre all'inizio il loro spirito per l'appunto punk sembra provocare le tre nonne, poi in realtà le nonne, come spesso accade, si superano completamente, cioè diventano molto più al di fuori degli schemi dei nipoti. Ne nasce un dialogo incredibile, perché poi tra queste tre persone e anche tra i tre ragazzi nascono rapporti completamente inaspettati, con capovolgimenti di punti di vista, e questo secondo me è proprio una testimonianza di quanto poi alla fine i pregiudizi si rompono nella vita concreta, nella vita vissuta. È veramente qualcosa di unico, secondo me, proprio per l'eccezionalità della storia. Dove avevi intercettato questo documentario? Allora, io l'ho intercettato a DocuDays, che è in Ucraina, dove mi avevano chiamato a fare da giurato e vinse il premio del pubblico, poi è stato a Doc Leipzig e poi al Biografilm. Sono tutti film inediti a Roma, tranne The Prince and the D-Book, ma che è stata fatta una sola proiezione all'Istituto Polacco. Quindi mi sembrava interessante dare questa opportunità